dicono ancora te. Questo ancora non è morto, cazzo ci fai ancora qui? Guarda che avevi torto, mica lo puoi riparare, frate mica lo puoi ripagare. Dici come ti va male, vorrei stendermi in riva al mare, invece no. Ancora schiaffi di ragazze freddi come il vento, solo perché io ci metto più sentimento. Ma questi qua mi dicono che sono matto, se ci metto il cuore dentro è il mio organo che muore lento, sulle note che è violento. Faccio un macello, sfascio il vascello, rimango in mezzo alle onde, lontano dalle sponde. Cerco il mio buon umore ma lui si nasconde, mi colpisce alle spalle con le mazzabionde. Bionde, muore, rosse, tosse, muore. Fosse bello davvero ti darei le vene che c'è in corpo, per farti cignettare tutta la roba del mondo. Ma non posso, allora spreca ancora le parole, come l'uomo spreca i giorni, camminando nei dintorni, stiamo entrando dentro i forni. Diventiamo cenere, così divento celebre, mi spezzo le vertebre, solo per ricevere ancora un po' di quella follia spontanea. Casa mia con la testa in avaria. Vada via chi mi ha promesso gioia quando l'aspetto sotto un cielo di salsa di soia. Divido la stanza col boia. Gli occhi neri perché guardano oltre, mica perché sono bello. Se no facevo il fotomodello, invece di strapparmi l'anima per metterla nelle canzoni che tu chiami merda. Pensa alla mia vita che bella, ma non ci credo, credo a me. A fare questo sono il re. Ogni giorno dalle 7 alle 23, canne d'erba, birra e caffè. Il diavolo mi lancia i componenti, pacchetti ne compro 20, così non rimango senza. Sto in paranoia, come se fossi un nomade, sono un tossicomane. Tu che cazzo vuoi da me? Ho chiesto qualcosa a te, che smetto da un giorno all'altro, perché mi credi feccia. Non hai visto la corteccia, non sono un albero, sono una fortezza. Mi lascio andare sul terzinato, uso la voce a perdi fiato, ma mi sento pedinato. Sto mondo di merda chi l'ha disegnato, fammelo conoscere, che gliene dico quattro. 26 anni che ci combatto, mi frega sempre di soppiatto. Ballo con i dubbi, come Kevin con i lupi, come l'ansia coi minuti, sulle strade coi dirupi. Ballo con i dubbi, come ballavo con lei, come ballavo con lei, come ballavo con lei. Ballo con i dubbi, come Kevin con i lupi, come l'ansia coi minuti, sulle strade coi dirupi. Ballo con i dubbi, come ballavo con lei, come ballavo con lei, come ballavo con lei.